Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Da una parte le imprese che chiedono la semplificazione dei contratti a termine, dall'altra i sindacati che chiedono misure per alleggerire il costo del lavoro. Domani sono molti i temi che il neo ministro del welfare Enrico Giovannini avrà sul tavolo, che deve aprire con le parti sociali. Domani è infatti la giornata in cui si comincia a discutere del pacchetto di misure per rilanciare l'occupazione in Italia, sicuramente la prima e più seria emergenza del nostro paese. In tutto questo oggi a Salva Danaio, nel nostro martedì del lavoro, ci occupiamo di lavoro e mamme, proprio oggi che su molti giornali si racconta di una nuova emergenza che si sta facendo largo nel nostro paese, quella dei posti nelle scuole dell'infanzia, nei nidi appunto italiani. Quanti bambini nascono in Italia ogni anno? Quanti di questi sono figli di donne che lavorano? Tanti, pochi? A parte il giudizio che si può dare sulla cifra, di certo la scelta di avere un figlio è sempre più ponderata da molte donne che temono spesso che una volta arrivato il bebè saranno costrette a rivoluzionare la propria esistenza dal punto di vista lavorativo. Tema molto delicato che si incrocia anche con tutto quel terreno che è fatto di norme e leggi che permettono di organizzare la gestione della maternità. Il congedo dal lavoro tra periodo obbligatorio e facoltativo, i permessi per allattare, i permessi per malattia, come si calcolano i giorni di assenza dal lavoro, come vengono retribuiti dall'azienda e quando arriva il benedetto voucher babysitting. Lo abbiamo lanciato, molti di voi lo ricorderanno perché ci sono molti papà e molte mamme che continuano a scriverci chiedendoci appunto se ci sono delle notizie. Lo abbiamo lanciato in una trasmissione di gennaio e da allora non è andato avanti quasi niente di questo processo che dovrebbe appunto lanciare questo sostegno finanziario. Una notizia invece è arrivata pochi giorni fa, riguarda le mamme lavoratrici iscritte alla cosiddetta gestione separata, perché l'INPS ha chiarito alcuni aspetti relativi al trattamento economico per congedo parentale e l'ampliamento appunto delle tutele per le lavoratrici interessate. So che ci sono tanti temi oggi all'ordine del giorno del nostro programma, cercheremo di affrontarli tutti al meglio appunto. Comunque il tema è, nel nostro martedì del lavoro, mamme al lavoro per l'appunto. Maria Rosa Gheido, consulente del lavoro, esperta del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. E buongiorno anche, grazie per il suo intervento, a Pietro Boffi, ricercatore del Centro Internazionale Studi Famiglia. Buongiorno. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori per intervenire in diretta sul tema di questa mattina. Ci aspettiamo tante mamme, naturalmente. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Ci potete anche scrivere al nostro indirizzo di posta, che è salvadanaio@radio24.it. Su Facebook, salvadanaio-radio24, interagite con noi anche su Twitter, @salvadanaio24. Adesso rapidissimamente la borsa. Giornata negativa, ma insomma uno stop era anche fisiologico che arrivasse. Non è arrivato nessuno stop questa mattina sul mercato giapponese, perché il Nikkei continua a marciare indisturbato nella sua percorso appunto di rialzo, anche oggi più 0,13% per il Nikkei 225, mentre sono in discesa le altre borse internazionali. Quelle europee naturalmente sono quelle che osserviamo in questo punto della giornata. Parigi scende dello 0,59% dopo il top da due anni ieri dal listino francese. Per la borsa tedesca invece ieri nuovo record assoluto, con appunto il DAX 30, il principale paniere, che oggi invece flette dello 0,45%. Si muove sulla parità Londra. Milano invece è di nuovo negativa. Già ieri aveva perso oltre mezzo punto percentuale a causa dello stacco dei dividendi, che ha riguardato ben 22 società sulle 40 del FTSE MIB, e oggi non c'è questo elemento fisiologico, diciamo così, e oggi c'è un calo dello 0,8% su Piazza Affari, che è soprattutto determinato dai cali dei titoli del settore bancario, anche se per la verità il peggiore adesso è Mediaset, che perde il 3,61%, a ribasso di oltre 2,5 punti per UbiBanca, Mediolanum, Intesa San Paolo, oltre 2 punti di calo per il Banco Popolare, Fondiari Assai, Lottomatica, la Popolare dell'Emilia Romagna. In rialzo invece Buzzi Unicem, che guadagna il 3,86% dopo il giudizio buy, comprare, emesso dagli analisti di UBS. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, lavoro e maternità. Sono tanti gli aspetti di cui una lavoratrice che progetta o si trova a vivere una maternità deve tenere conto. In alcune situazioni e professioni la gestione di questa fase bella e delicata è più facile. In altre è necessario fare più attenzione e informarsi con cura. È il caso, ad esempio, delle tutele previste a favore degli iscritti alla gestione separata. Una recente circolare dell'INPS riassume alcuni provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, arrivando ad estendere le tutele tipiche dei contratti di lavoro dipendente, come la malattia e appunto la maternità, anche agli autonomi e ai parasubordinati, e quindi anche ai tanti precari e lavoratori a progetto disseminati nel nostro paese. Questi lavoratori possono godere dell'indennità per congedo parentale per un periodo massimo di 3 mesi, da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino. Tra i requisiti c'è la necessità di dimostrare che sia in corso un rapporto di lavoro e che nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo risultino accreditate almeno 3 mensilità nella gestione separata. Per le neomamme che non lavorano, non va dimenticato che c'è la possibilità di ottenere, in presenza di precisi requisiti ISEE, un assegno di maternità statale. Viene richiesto al comune ed erogato dall'INPS. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Comincio subito con il tema che solleva Damiano da Roma, che ci scrive: ma quando si faranno veramente asili aziendali seri, reali, in primo luogo negli uffici pubblici come nei ministeri? Diciamo che il nostro paese per politiche del welfare adeguate non ha mai brillato in tutta Europa e chiaramente guardiamo al miraggio delle realtà del nord Europa, dalle quali siamo ben distanti. Allora, Pietro Boffi, io volevo cominciare subito con lei per un commento sulle notizie di cui abbiamo letto proprio oggi sui giornali. Ci ha colpito molto, mentre preparavamo la trasmissione, l'inchiesta pubblicata da Repubblica: all'asilo non c'è posto, la rivolta delle mamme contro le liste d'attesa, un'emergenza che riguarda non solo poche città, ma per la verità a macchia di leopardo molte realtà territoriali italiane. E accanto a questo aspettiamo invece che parta il voucher per il babysitting, questo contributo che poi spiegheremo e ricorderemo in che cosa consiste, appunto per incentivare l'uso dell'asilo nido da parte appunto delle mamme che devono naturalmente rientrare dopo la maternità in tempi brevi nel lavoro. Insomma, da una parte l'emergenza, da una parte lo Stato che invece vorrebbe con questo contributo far ritornare subito le mamme al lavoro, consentendo loro di portare i bambini all'asilo in un paese in cui queste strutture non hanno capienza. Ma come le mettiamo insieme queste due cose? È grave perché, diciamo, se per quanto riguarda la scuola materna, intendo la scuola dell'infanzia, 3-6 anni, finora si stava andando abbastanza bene, ed è proprio la crisi ultima che ha peggiorato la situazione a causa dei tagli. I tagli agli enti locali che sono stati decisi 3-2 anni fa, l'anno scorso, ora stanno arrivando i nodi al pettine e quindi gli enti locali non hanno più fondi per poter gestire un numero di sezioni adeguate. Quindi anche la scuola 3-6 anni, che finora era tutto sommato, teneva botta anche per la scarsità delle nascite in Italia, sta andando in crisi. Questa crisi si aggiunge invece all'altro settore, quello che storicamente, non da oggi, è un settore in sofferenza, cioè gli asili nido. E stiamo parlando del servizio che maggiormente consentirebbe alle mamme che possono e vogliono e debbono molto spesso rientrare al lavoro di poterlo fare in tempi sufficientemente rapidi. Sugli asili nido siamo in gravissimo ritardo da tantissimo tempo. Ricordo solo che il protocollo di Lisbona, che risale intorno al 2000-2001, indicava per il 2010 di raggiungere sostanzialmente il 30% di posti per... Le lascio bere un bicchiere d'acqua, Boffi, perché l'ho sentita anche particolarmente, come dire, vivace anche nel suo commento, quindi evidentemente ce la facciamo? Sì, no, ecco, ce la facciamo. Sì. Allora, l'obiettivo di Lisbona che cosa prevedeva? Il 30% di posti negli asili nido per i bambini sotto i 3 anni. Noi siamo arrivati con grande sforzo al 13%. Siamo lontanissimi, abbiamo tagliato tutti i fondi per gli asili nido, questo tipo di servizio è veramente qualcosa che in Italia è molto carente. Mm-hmm. Quindi l'insieme del quadro è esattamente di una situazione che non mette a disposizione i servizi per le mamme e oserei dire per l'intera famiglia per poter conciliare la nascita di un nuovo figlio e il lavoro. E questa è una situazione veramente grave. Certo. Questi ultimi tagli lì direi piove un po' sul bagnato, hanno portato addirittura situazioni come Reggio Emilia, che storicamente sì, sono degli esempi. Era direi il fiore all'occhiello di come si faceva a far bene la scuola dell'infanzia per tutta l'Europa, a avere una carenza di 500 posti a causa del taglio di 1 milione di euro. Quindi. E poi diciamo ecco che non è che sia ci sia stato un baby boom nel nostro paese, per cui è oggettivamente una questione di una serie di servizi che non funzionano, perché non è che abbiamo moltiplicato le nascite in Italia, anzi tutt'altro, si fanno sempre meno figli. Tra l'altro le volevo chiedere, insomma, tutto questo meccanismo che non funziona nel nostro paese, Boffi, secondo lei è riconducibile al fatto che è solo una mancanza di risorse finanziarie oppure è proprio un problema più complessivo? No, è un ritardo storico nei confronti delle politiche familiari. Le posso fare un esempio: la Francia nel 2004 fa partire il piano Jacob, all'epoca ministro per la famiglia, per incrementare i posti negli asili nido, fornire diversi tipi di allocazione familiare, chiamano, di contributi, se uno riprende part time, se un genitore sta a casa, se un genitore porta da una madre di giorno, diciamo che i piccoli nidi familiari, il bambino piuttosto che al nido quello statale. Delle diverse prospettive di poter avere integrazioni al reddito. Dal 2004 al 2010 la Francia è cresciuta a 1,7 figli per donna in età feconda a 2 e sta superando i 2 figli per donna. Noi non abbiamo fatto nulla, noi ci portiamo dietro appunto un ritardo storico, una carenza proprio di progettualità, solamente cose tampone. Il bonus bebè un anno sì, un anno no, poi sparisce, la social card che è stata poi riservata soprattutto a famiglie unipersonali, che tradotto in italiano vuol dire pensionati, donne anziane sole. Ecco, tutto questo è mancato e adesso anche il discorso del voucher speriamo che sia una misura eventualmente strutturale. Ora siamo anche in crisi, però quando c'è una crisi bisogna concentrare le risorse sicuramente su ciò che è rivolto verso il futuro. E se mi puoi permettere una battuta, l'ultimo problema delle famiglie italiane oggi è quello dell'IMU, soprattutto delle famiglie con figli e delle famiglie con basso reddito, che sono quelle che più soffrono questa situazione. Allora, intanto c'è anche un ascoltatore che solleva il problema delle mamme licenziate grazie ai licenziamenti facili consentiti dalla riforma Fornero. Maria Rosa Gheido e le flessibilità appunto della riforma del mercato del lavoro, che porta il nome dell'ultimo ministro del welfare che ha lasciato il posto appunto ad Enrico Giovannini e Elsa Fornero. Per la verità questa riforma ha portato anche delle novità per appunto le mamme, in particolar modo il cosiddetto congedo parentale per il papà, però abbiamo anche lamentato nell'altra puntata che abbiamo dedicato a questo argomento, insomma, un giorno solo per permettere al papà anche di vivere a pieno l'arrivo di un bebè in casa, ci era sembrato appunto molto molto poco, si ricorda quando avevamo fatto l'altra trasmissione? E insomma, qua di temi da affrontare sarebbero molti, però di fatto insomma il tema dei permessi per la maternità non sono cambiati molto, no? Non ci sono state delle novità rilevanti anche con le ultime novità introdotte dalla riforma Fornero? No, non ci sono state novità rilevanti, perché in realtà alcune misure che secondo me avrebbero aiutato parecchio, per esempio il congedo parentale, quella diciamo la ex astensione facoltativa, che è conosciuta soprattutto con questo nome, e la possibilità di fruirla a ore, che è stata introdotta dalla legge 228 del 2012, in realtà è demandata a contratti collettivi disciplinano la materia. Io, insomma, dai segnali che si percepiscono, credo che ben altre cose i contratti collettivi al momento disciplinano, e quindi rimane una misura che potrebbe essere estremamente utile per le donne che comunque potrebbero tornare al lavoro, seppur parzialmente, rimarrà credo del tutto inattuata. Anche perché l'altra volta che avevamo organizzato la trasmissione c'era proprio un ascoltatore che ci aveva raccontato di un contratto forse nel settore chimico che era stato appena rinnovato, e di questo aspetto non sarà neanche discusso in fase di contrattazione. Tutti i rinnovi fatti diciamo da marzo ad oggi, c'è dentro l'edilizia e la metalmeccanica, hanno disciplinato, non so, l'apprendistato, ma nessuno si è occupato di questa misura, che è una misura fra l'altro estremamente difficile da gestire, perché in qualche modo obbliga il datore di lavoro a una sorta di orario a tempo parziale che invece per legge è demandato in qualche modo alla libera contrattazione, quindi effettivamente non è facile da gestire. C'è una conflittualità quindi tra le norme, certo, intanto. Certo. Però, per esempio, una misura molto più banale come quella dei buoni, i cosiddetti babysitting, cioè i buoni per aiutare appunto le mamme meno abbienti a rientrare prima al lavoro, dando loro i voucher per retribuire la babysitter, oppure pagando loro una parte della retta dell'asilo nido, è estremamente farraginosa e sufficientemente, diciamo, ferma, perché comunque richiede l'accesso telematico, il possesso del PIN, è collegata a graduatorie in base all'ISEE, cioè stando così le cose ho l'impressione che non avremo anche qui misure estremamente veloci. È dell'altro giorno il bando per gli asili nido, esatto, che possono iscriversi, e dal 16 maggio con l'accesso appunto telematico tramite il PIN azienda possono iscriversi nel registro che poi sarà messo a disposizione delle mamme. Quindi in realtà poi non ammettendo appunto che si organizzi questo famoso, poi ne parleremo nella seconda parte del programma perché devo già fare la prima pausa, non appena verrà predisposto questo click day per accedere appunto a questo voucher per mandare all'asilo nido il proprio bebè oppure magari per pagarsi una babysitter, in realtà se si scegliesse l'opzione asilo nido non è detto che tutti, cioè una famiglia non può scegliere il nido che sta sotto casa, deve scegliere quello che si è accreditato presso il ministero attraverso questo bando, dottoressa Fornero? Diciamo che potrebbe essere che, non lo so, nel paese, nella città di residenza di quella lavoratrice nessun asilo pazzesco abbia ritenuto di iscriversi all'elenco e quindi non ci sarà, diciamo, la possibilità di scelta in realtà sarà univoca, o sceglie i voucher o non sceglie nulla, perché l'asilo potrebbe non esserci, quindi è chiaro che, e fra l'altro, scusi ma solo brevemente, anche se poi ne riparleremo, agli asili che intendono iscriversi sono giustamente chiesti requisiti abbastanza stringenti in termini di sicurezza, di regolarità contributiva e quant'altro. Certo, e in tutto non ci dimentichiamo che per questo provvedimento sono stati stanziati 20 milioni di euro per un triennio, adesso non mi ricordo bene il calcolo che avevamo fatto nell'altra puntata, ma insomma mi pare che avevamo individuato un numero, una platea possibile appunto di persone da accontentare molto molto limitata. Dovrebbe arrivare, nel giro di poche settimane, il tanto atteso click day per l'assegnazione di un contributo per l'asilo nido o, in alternativa, dei voucher per pagare la babysitter. Il cosiddetto bonus bebè 2013. Il voucher ha un valore di 300 euro mensili e va richiesto telematicamente all'INPS, che stilerà una graduatoria in base all'ISEE nei limiti della disponibilità massima di 20 milioni di euro. Contributi e voucher sono concessi solo a chi rinuncia al congedo parentale, con l'obiettivo di far tornare le donne al lavoro il prima possibile, evitando che possano perdere opportunità professionali. Nel compilare la graduatoria, però, si terrà anche conto dell'ordine di prenotazione e per questo è importante stare allerta ed essere veloci nell'inoltrare la propria richiesta. Quando ci sarà questo benedetto click day saremo qui pronti naturalmente a raccontarvi come si fa per poter accedere a questa speciale graduatoria e ottenere questo contributo che peraltro, Maria Rosa Gheido, lo ricordiamo, di circa 300 euro mensili per 6 mesi, sì, ma non per tutti i lavoratori o le lavoratrici per la verità, perché qualcuno in realtà, a qualcuno spetta un numero di mesi inferiore di contributo. Sì, le lavoratrici iscritte alla gestione separata del lavoro autonomo, vale a dire la lavoratrice a progetto, le associate in partecipazione, ma anche le libere professioniste prive di albo ed iscritte alla gestione separata, hanno un limite invece di 3 mesi per il diritto a questo bonus. Ne sono completamente escluse tutte le altre lavoratrici autonome, quindi artigiane, commercianti, coltivatrici dirette. Come se la maternità fosse meno impegnativa mamme. Sono questi provvedimenti che talvolta, quando parliamo tanto di salvaguardia delle parità e attenzione, perché io penso anche, non so, al babbo che sostituisce la mamma e quindi ha diritto a un congedo a questo punto di paternità pieno perché la mamma è malata, perché ha cioè per tanti motivi, perché non c'è, ecco, in parole povere. Non vedo perché lui, che anche egli un lavoratore magari subordinato con problemi, non possa fruire, che so, dell'aiuto per l'asilo nido piuttosto che. Cioè credo che forse un po' più di attenzione al tema delle parità intese in senso veramente di accesso ai diritti dovrebbe essere un pochino più monitorata. Abbiamo un premier che su questi temi è teoricamente molto sensibile, per la verità. Vi devo raccontare che una volta ad un meeting a Cernobbio ho anche moderato Enrico Letta su questi temi e mi era sembrato estremamente interessato e molto portato anche ad un ragionamento appunto su queste tematiche. Vedremo, è chiaro che adesso la coperta è cortissima per tutto, si deve andare per emergenza, in questo momento è quella occupazionale, poi ce ne sono altri, conti dello Stato, però speriamo che ci sia anche il momento in cui si possa fare un confronto molto attento su questa tematica. Adesso c'è anche Carmelo che ci scrive: Deborah, non ho capito bene, io sono un operaio, a fine luglio mia moglie partorisce, quanti giorni di permesso retribuiti mi vengono riconosciuti per poter condividere al 100% questo momento appunto con mia moglie? Dottoressa Gaido, lo ricordiamo, un giorno? Certo, diciamo che un giorno può essere fruito in quanto obbligatorio, quindi su quello non si discute. Deve in qualche modo prenotare questa sua assenza, perché bisognerebbe avvertire il datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'evento, del parto. Quindi in qualche modo può prenotare questa sua assenza, che comunque deve essere concessa ed è obbligatoria comunque. Però può anche chiedere in questa occasione i 2 giorni che sono invece facoltativi e che quindi papà possono chiedere, e può anche agganciarli, e entrambe le assenze, quella obbligatoria e quella facoltativa, sono indennizzate al 100% con costo a carico dell'INPS e non del datore di lavoro. Allora, intanto adesso c'è anche Silvia su Facebook che ci scrive, adesso leggerò il suo messaggio, ed è pronto anche Giovanni dalla provincia di Milano con una sua osservazione a proposito del tema dei posti negli asili nido. Però prima volevo far fare un commento anche a Pietro Boffi sul tema di questo spaccato dei papà che vorrebbero partecipare pienamente al momento della maternità, chiaramente della propria compagna, questa novità anche nella vita familiare, ma anche lì davvero dobbiamo fare molta strada forse in Italia per avere, come dire, una cura attenta di questa esigenza degli uomini anche, no? Sì, assolutamente, perché è stato un grosso dibattito a questo proposito che ha partorito poi il topolino di una giornata, che direi anche poco dignitosa. L'idea che il problema non sia, non si possa limitare a mamma e maternità, ma debba riguardare la nascita di un nuovo bimbo in famiglia, è importantissimo, perché noi abbiamo sia problemi strutturali di servizi che mancano, sia coperte corte di finanziamenti che ormai si sono ridotti e non ci sono più, ma abbiamo anche un problema culturale. Finché noi continuiamo a vedere il problema della nuova nascita come un problema esclusivamente femminile, rinchiudiamo in una situazione estremamente difficile le donne, che sono le uniche che devono far coincidere e armonizzare i tempi di lavoro e i tempi della casa, della famiglia, della cura dei figli, specie quando sono piccoli. Bisogna cambiare paradigma, bisogna incentivare maggiormente la flessibilità di tutti, non la flessibilità nell'essere buttati fuori dal posto di lavoro, ma la flessibilità di entrambi i coniugi per poter far fronte a questi impegni. Si chiamano appunto un part-time flessibile, si chiama il telelavoro, si chiama il coinvolgimento sia del padre che della madre. È dimostrato che tra l'altro esperienze straniere, soprattutto quella austriaca, che spesso viene citata anche dal nostro osservatorio per le politiche familiari, che era attivo fino a qualche mese fa, ora spero che si riattivi, è dimostrato che laddove vi sono degli schemi di possibilità di andare a lavorare con una grande flessibilità, la produttività aumenta, le persone sono più tranquille. Cioè, se vogliamo rilanciare la nostra competitività, uno dei modi è favorire proprio questa conciliazione tra famiglia, paternità, maternità e lavoro, e su questo siamo veramente molto indietro anche culturalmente, oserei dire. Silvia su Facebook ci scrive: sono un ricercatore, quindi una ricercatrice universitaria a tempo determinato, non ho diritto a riduzioni d'orario, ovvero a permessi d'allattamento. Dottoressa Gaido, che come commentiamo questa situazione? È il mondo universitario che è così o è sempre nel tempo per esempio? Abbiamo tante volte spiegato anche le nuove formule appunto di contratto di assunzione che ha introdotto, precisato, specificato la legge Fornero. Per esempio, se una lavoratrice ha un contratto di apprendistato magari stipulato di recente, scopre di essere incinta, la sua, come dire, gestione della maternità prima e dopo il parto è identica a quella di una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato? Dunque, andando per ordine, per quanto riguarda la ricercatrice, mi sembra di capire che in realtà ha un contratto di collaborazione e quindi i congedi, diciamo cosiddetti di allattamento, sono solo per lavoratori subordinati, non sono estesi alla gestione separata. Per quanto riguarda invece la tutela della maternità, che deriva oramai dal decreto legislativo 151 del 2001, è garantita a tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla tipologia contrattuale. Quindi c'è poi casomai il problema dell'indennità economica, che però riguarda esclusivamente i contratti a termine, e il contratto di apprendistato è invece per definizione un contratto a tempo indeterminato. Esatto, quindi, e quindi a questo punto c'è anche la possibilità appunto della sospensione del contratto di apprendistato e del periodo di formazione per tenere conto dell'evento maternità. Allora, fra l'altro, scusi, questo lo ricordiamo perché non se ne parla quasi mai, ma l'evento maternità tutela la lavoratrice anche dal licenziamento, perché fino all'anno di età del bambino, diciamo che dal momento dell'inizio di gravidanza fino al compimento dell'anno di età del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata. Allora, poi magari ricorderemo anche quanti mesi di astensione, chiamiamola così, dal lavoro sono possibili nel periodo precedente al parto e nel periodo anche successivo, anche perché ricordiamo che il parto e la data può essere una circostanza estremamente variabile, per cui faremo anche il conteggio esatto dei mesi di cui una mamma ha disponibilità. C'è Giovanni dalla provincia di Milano, si riesco a sentirlo prima della nostra prossima pausa. Giovanni invece interviene sul tema dei nidi. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo semplicemente sottolineare che per quanto riguarda la presenza di posti dei nidi, io parlo della provincia di Milano e della Lombardia un po' in generale. Diciamo che in Lombardia è stata fatta una politica anche dal punto di vista regionale per l'incentivazione di queste forme di servizi. E in questo momento abbiamo una condizione in cui ci sono più posti di quelli che sono le richieste. Per cui quando si dice che noi non abbiamo raggiunto i livelli di saturazione, eccetera, sarebbe interessante fare un'analisi differenziata per territori. Certo, ma questo sicuramente. Questo tipo di situazione, per esempio, ha portato in Lombardia il fatto che siano nate, diciamo così, diverse imprese private che lavorano anche in questo tipo di situazione e che ultimamente, negli ultimi 2 anni, sono in grande sofferenza. Allora, grazie Giovanni. Sicuramente la situazione sul territorio è estremamente eterogenea. C'è anche da ricordare il fatto che in una condizione in cui le famiglie stringono la cinghia perché magari c'è un componente del nucleo familiare che ha perso il posto di lavoro, che magari si trova in cassa integrazione, in mobilità e quant'altro, chiaramente magari si deve risparmiare e si cerca magari la rete di protezione sociale, il nonno, piuttosto che mandare appunto il bebè in una struttura. Insomma, poi le circostanze chiaramente sono molto differenziate. Comunque 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi se vorrete intervenire appunto sul tema di questa mattina. Poi anticipo già Maria Rosa Gheido, che vorrei farmi spiegare in cosa consiste questa nota del Ministero del Lavoro emanata ad inizio maggio, ne ha scritto proprio la dottoressa Gheido sulle Sole 24 Ore, e che precisa che cosa succede quando una lavoratrice in gravidanza che ancora lavora svolga delle attività che non sono compatibili, diciamo, con il suo stato. Cosa deve fare l'azienda e cosa può fare anche la stessa lavoratrice, che naturalmente non può svolgere perfettamente i suoi compiti. Viva la mamma. Eccoci di nuovo in diretta. Sì, lo so che Filippo è talmente il nostro tecnico di questa mattina interessato all'argomento di oggi, visto che è papà di un bimbo di quanto ha? Il tuo bebè 2 anni. E quindi molto sensibile al tema, insomma, della babysitter, che dovrebbe essere sempre a disposizione, perché chiaramente qua si parla di una coppia che lavora anche in questo caso, per cui molto sensibile al tema di questa mattina. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Tornando al tema che abbiamo affrontato prima, papà e maternità, perché c'è un'ascoltatrice, Elma, olandese ma da 23 anni residente in Italia, per cui chiaramente da certe nazioni ovviamente quando sentono dibattere in questi termini questi argomenti si sollevano appunto sulla sedia, come Elma in molti appunto sottolineano il fatto che bisogna rivolgersi con più insistenza anche all'universo dei papà, perché dice Elma la responsabilità per la crescita di figli è di entrambi i genitori, per cui non parlate solamente di maternità rivolgendovi al ruolo della mamma e all'esigenza appunto della mamma, perché chiaramente anche i papà ne hanno in questo frangente, ed è un tema che abbiamo, Elma, affrontato poco fa anche con il nostro sociologo di questa mattina, con il nostro ricercatore del Centro Internazionale Studi per la Famiglia, Pietro Boffi. Allora, eravamo al tema, dottoressa Gheido, che le avevo appunto anticipato prima, questa circolare del Ministero del Lavoro che è intervenuta per fare delle precisazioni sulla questione della lavoratrice in gravidanza quando questa svolge delle attività in condizioni non compatibili con il suo stato. Che cosa deve fare la lavoratrice? Sollevare il problema con l'azienda? Che cosa dice il Ministero del Lavoro? Il Ministero del Lavoro, con questa nota che ha citato, che è la 7553, molto recente, prima di tutto fa il punto sulle diverse competenze a seconda delle cause per le quali si rende necessario anticipare l'astensione obbligatoria. E quindi togliamo di mezzo la causa in qualche modo più grave, che è quella legata a motivi di salute, complicazioni della gravidanza, dove diciamo l'esame, la valutazione dell'astensione anticipata è dell'ASL. Invece la nota si occupa essenzialmente del ruolo del Ministero del Lavoro, che interviene quando è l'attività lavorativa a mettere a rischio la lavoratrice e la sua gravidanza. Quindi magari una catena di montaggio particolarmente impegnativa. Sì, una catena di montaggio, ambiente non salubre. Un supermercato dove bisogna alzare, che ne so, pacchi, pacchetti, sì, eccetera. Quindi diciamo un'attività lavorativa che potrebbe pregiudicare la salute della lavoratrice o del bimbo. A questo punto l'astensione dal lavoro può essere anticipata e l'autorizzazione all'anticipo è emanata dalla direzione territoriale del lavoro competente, alla quale può rivolgersi la lavoratrice facendo appunto istanza, così come può essere anche una verifica ispettiva che fa emergere la pericolosità di questa situazione. E a questo punto il datore di lavoro è tenuto per legge a verificare la possibilità di adibire la lavoratrice a un'attività invece non a rischio, ma se questo non è possibile, in qualche modo lo certifica e lo dichiara, e l'automatismo del provvedimento prescinde da ulteriori attività di vigilanza che potrebbero essere anche effettuate, ma che riguardano più che altro la dichiarazione del datore di lavoro di non avere un'altra mansione o una possibilità adeguata, di, certo. Di adibire. E quindi a questo punto questa nota tende appunto in qualche modo a sottolineare la necessità che il tutto sia molto veloce, perché la richiesta, cioè ogni un giorno di lavoro in più potrebbe anche pregiudicare, no, una situazione. Certo. Quindi pratica veloce e nello stesso tempo attenzione anche alla realtà lavorativa di quella persona che è in una situazione comunque di sofferenza. Intanto altri ascoltatori, sempre a proposito dei servizi per le famiglie, quindi asili, scuole materne, scuole per l'infanzia, c'è un ascoltatore, un'ascoltatrice che scrivono: parlate anche degli orari di queste strutture, perché non è possibile per dei genitori che lavorano andare a ritirare il bambino alle 16 del pomeriggio. Il tema è sempre quello che indicava anche prima Pietro Boffi. Per fortuna che nel nostro paese fino a questo momento c'è stata una rete di protezione sociale che ha funzionato, ha sostituito anche quell'ambito pubblico che non ha potuto aiutare molti nuclei familiari, che ancora non può aiutarli. Per fortuna che ci sono i nonni e le nonne in Italia. Che ne dice? Sì, assolutamente. Questo, al di là di ciò che si può pensare a livello personale, è un dato di fatto. L'Italia è il paese in Europa in cui vi è maggior scambio e relazioni di aiuto tra le generazioni precedenti, quelle dei nonni, e le generazioni successive, quelle dei figli, che a loro volta hanno figli che saranno i nipoti. Anche all'inverso, a dire il vero, più le persone diventano anziane e più i loro figli e i nipoti si prendono cura e si prestano per tante incombenze. Questo è un dato di fatto ed è una forza, però attenzione, non è una forza che durerà per sempre, perché la concentrazione delle nascite ha comportato che sempre meno persone saranno presenti in modo da poter intervenire. L'allungamento dell'età pensionabile funzionabile, esatto, toglierà questo tipo di supporto, non possiamo appoggiarci criticamente su questo, anche perché è comunque sempre una forma di aiuto intrafamiliare molto bello, molto significativo, ma lasciato alle situazioni private. Chi non ce l'ha cosa fa? Non si può appoggiare solamente su questo. Bisogna valorizzare qualcos'altro, secondo me, e sono almeno tre cose che si possono fare. Uno è quello di sburocratizzare gli interventi, perché sentire che c'è il click day e devo essere lì pronto al minuto secondo per lanciarmi in una gara dove probabilmente uno arriva e 99 rimangono fuori, non è dignitoso. Non è bello offrire un tipo di supporto alle famiglie, alla mamma, ai nuovi nati di questo tipo. Sburocratizzare. Secondo, per quanto riguarda, qualcuno l'ha anche accennato in qualche ascoltatore, mi sembra molto interessante l'idea del welfare aziendale. Sì. L'idea del welfare aziendale va veramente rivisto anche a livello di mentalità, perché in effetti potrebbe costare poco, perché basterebbe sgravare ciò che l'azienda impegna per dei servizi sociali a favore delle famiglie e dei bambini e dei propri dipendenti, le tasse, quindi incentivare questi investimenti, un piccolo contributo al lavoratore stesso, e si può creare una situazione veramente molto molto... Le dico anche un'altra idea che ha Marcello, l'ascoltatore che ci ha scritto adesso per ultimo: se si togliesse un po' di burocrazia, quindi qui è d'accordo con lei, le persone potrebbero anche organizzarsi in proprio, traducibili in casa parenti, a quel punto basterebbe un piccolo finanziamento anche per incentivarla. Questa rete sociale di cui parlavamo prima, non riesco ad andare oltre, ma ci torneremo su questi temi che sono sempre molto interessanti, sia dal punto di vista pratico, concreto che sociale. C'era un'ascoltatrice che voleva chiederci qualcosa a proposito della maternità facoltativa dopo il terzo anno di età del bambino, allora magari più avanti faremo una puntata specifica su questo. Grazie a Maria Rosa Gheido, a Pietro Boffi per essere stati con noi, a Marco Lombardo, a Pippo Aureggi, a domani. Salva Danaio.